Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il TAR ha annullato le nomine dei direttori stranieri dei musei. I dirigenti pubblici devono essere italiani. Franceschini dice: ricorreremo al Consiglio di Stato. Manchester, trovato materiale per altre bombe. Dopo la diffusione di informazioni, stoppa la collaborazione tra intelligence americana e britannica. Banche Venete, dopo l'allerta di ieri di Padoan incontra i vertici e rassicura: garanzie pubbliche per la liquidità, dialogo con l'Europa. La Lega all'attacco sui mendicanti in Liguria: dobbiamo schedarli, chi fa accattonaggio non va accolto. Reggio Calabria si è risvegliato dal coma. Don Giorgio aveva scoperto dei ragazzi che erano entrati in parrocchia forzando la porta ed era stato picchiato. È morto improvvisamente l'astrofisico Giovanni Bignami, noto a livello internazionale, aveva 73 anni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Se volete scriverci potete farlo come sempre al 349-238-6666, siamo in diretta anche oggi da Autopromoteca Bologna e siamo miracolosamente riusciti ad attivare la diretta Facebook che stiamo facendo partire dalla nostra pagina proprio in questo momento, quindi ci trovate in diretta anche là ed è da là naturalmente che ci potete anche scrivere se volete sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, www.facebook.com/effettogiorno. In apertura dunque parliamo della decisione del TAR sui direttori dei musei. Antonello Cherchi è in linea con noi, giornalista del Sole 24 Ore, quello che sostanzialmente ha fatto lo scoop, perché il Sole 24 Ore ce l'aveva oggi in pagina questa notizia. Allora Antonello, innanzitutto buongiorno, in diretta ai nostri studi di Roma, e raccontaci un po' che cosa ha deciso il TAR e come ha reagito Franceschini, vai. Buongiorno a voi. Il TAR in buona sostanza ha deciso che i criteri seguiti per la selezione dei 20 direttori dei supermusei perché hanno, con una riforma voluta da Franceschini, hanno piena autonomia organizzativa, contabile, scientifica, che i criteri seguiti non sono giusti. Ha individuato soprattutto tre falle. Una è quella che hai detto in apertura, il fatto che abbiano aperto alla selezione anche a candidati stranieri. Gli altri sono falle proprio nella censura e nella procedura che è stata seguita nella valutazione dei candidati. Quindi in virtù di queste censure, di fatto da oggi sei direttori di questi sei supermusei non sono più al loro posto, perché il TAR ha annullato gli atti con cui attraverso i quali sono stati nominati. Tutto questo però getta, come dire, un'ombra di carattere ovviamente giuridico sull'intera riforma Franceschini, perché se ci fossero degli altri ricorsi di analogo tenore anche altri direttori rischiano, come dire, di essere per il momento lasciati a casa. Ovviamente tutto questo è una prima fase, perché come ha detto Franceschini poco fa in una conferenza stampa, il Ministero farà appello al Consiglio di Stato. Farà appello al Consiglio di Stato e vedremo come andrà a finire da questo punto di vista. Io intanto ti ringrazio, grazie ad Antonello Cherchi del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. Più avanti torneremo a parlare di questa vicenda e ne parleremo con un importante amministrativista per avere un commento e capire da un punto di vista giuridico come funziona e come si può intervenire. Ci spostiamo adesso a Manchester per gli aggiornamenti dopo l'attentato, dopo il concerto avvenuto al termine del concerto di Ariana Grande. Questa mattina, tra l'altro pochi istanti fa, notizia di poco fa, la regina è andata in visita dai feriti. Vediamo di fare un punto anche sulle indagini con Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Giorgia, buongiorno. Buongiorno, sì, mentre la regina era in visita ai feriti era stato dichiarato un falso allarme per una intensissima operazione congiunta dell'esercito, delle forze dell'ordine e degli artificieri accorsi nel centro di Manchester vicino a un centro commerciale. Fortunatamente appunto era un falso allarme. Il primo ministro Theresa May però è apparsa per confermare che lo stato di allarme nel paese deve rimanere a livelli critici e il pubblico deve essere vigile. Di pari passo a queste frenetiche indagini della polizia britannica, che al momento portano 8 presunti terroristi in carcere, continuano ad emergere i nomi e le storie delle 22 persone, molti giovani, che hanno perso la vita nel foyer dell'Arena di Manchester. Oggi per loro la nazione intera ha osservato un minuto di silenzio alle 11 locali. Le indagini sulle reti di complici del terrorista suicida Salman Abedi coinvolgono altri paesi, mentre il padre ed anche il fratello minore dell'attentatore restano detenuti in Libia per possibili affiliazioni con ISIS. Da fonti di intelligence tedesche emerge che il terrorista si trovava a Düsseldorf 4 giorni prima dell'attentato di lunedì scorso. Pur essendo già stato segnalato ben 5 volte alle autorità britanniche per le sue esternazioni estremiste, Salman Abedi non si trovava sulle liste internazionali dei sospetti terroristi islamici e quindi aveva potuto viaggiare liberamente anche in Europa. Sospeso invece lo scambio tra Scotland Yard e gli Stati Uniti per quel che riguarda le informazioni relative alle indagini in corso, dopo la fuga di notizie che ha portato sul New York Times le foto dello zaino bomba dell'attentatore. Oggi a Bruxelles, al vertice della NATO, la May dirà a Donald Trump che le informazioni sulle indagini devono restare riservate. Domani sarà in Sicilia, dove il primo ministro cercherà di stringere la collaborazione con i paesi del G7 e la NATO contro il terrorismo e la diffusione di ideologie estremiste sui social media. Per ora ti restituisco la linea, Simone. E ti ringrazio, grazie dunque a Giorgia Scaturro per questo aggiornamento e proprio per commentare questo stop allo scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Siamo in linea con Germano Dottori, che è docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma. Dottori, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, che come valuta questa decisione britannica di scambio di informazioni e come valuta soprattutto questa fuga di informazioni partita proprio dagli Stati Uniti? Ma dal mio punto di vista, e anche avendo dato un'occhiata ai giornali inglesi e a quelli americani, il problema sembra essere una policy completamente differente nella gestione della comunicazione concernente dati così sensibili. Gli americani hanno maggior fretta d'abitudine rispetto agli inglesi, che pensate, ogni qualvolta avevano una perdita in Afghanistan, non davano il nome degli uccisi prima di 48 ore. Figurarsi quando poi, anziché di proprie perdite, si parla di attentatori rispetto ai quali sono in corso delle indagini. D'altra parte immagino che gli americani desiderassero che subito dopo Riyadh in qualche modo fosse immediatamente chiara la natura jihadista della strage di Manchester e quindi ne risultasse rafforzato il messaggio del loro presidente, che ha invitato sostanzialmente in primo luogo tutti i paesi musulmani, ma poi anche il resto del mondo, a fare la propria parte nella lotta al terrorismo di natura jihadista. Io non credo che in realtà questa dichiarazione avrà poi un seguito operativo straordinario, intanto perché comunque tra di loro i servizi di intelligence parlano poco, e quando parlano generalmente sulla base della logica dello scambio, cioè danno un'informazione per riceverne un'altra. Salvo che non ci sia imminente una minaccia di tali proporzioni, che a quel punto diventa impossibile non condividere se si è tra paesi alleati. La ringrazio, grazie dunque a Germano Dottori anche per questa sua valutazione, per questa sua analisi sui fatti di Manchester e su questa fuga di notizie. Siamo al fronte delle banche e torniamo dunque all'Italia. Oggi l'incontro tra Padoan e i vertici delle Venete, che ieri hanno dichiarato problemi nella trattativa con Bruxelles, addirittura si è paventato il rischio di un bail-in. Siamo in linea con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno, e quali sono le ultime? Sì, buongiorno a voi. Questa mattina l'incontro è avvenuto, un incontro a poche ore dal vertice di ieri a Bruxelles, e il fatto stesso che appunto a distanza di poche ore ci sia stato da fare sia vista la necessità di fare il punto col ministro dà un po' il senso della temperatura che si sta scaldando intorno alla vicenda. In sostanza, la Commissione europea chiede che il piano, che l'aumento di capitale previsto per le due banche, che in teoria dovrebbero essere fuse, ma anche qua non si capisce quale sia il gradimento della Commissione al riguardo, il piano sia da 6,4 miliardi, ma di questi 6,4 miliardi uno sia a carico dei privati, uno in più. Il problema è che non si trovano privati disposti di fatto a buttare quei soldi, considerato che le banche sono in via di nazionalizzazione. Se la Commissione europea tiene il punto, l'Italia ha due possibilità: o provare a negoziare, ma in quel caso una risoluzione con il bail-in, che sarebbe, diciamo, l'epilogo peggiore, non si può evitare, cioè non si può evitare, non si può escludere, oppure l'alternativa è che si provi ad alzare la voce dal punto di vista politico, che peraltro era quello che ieri l'amministratore delegato di Intesa Messina un po' auspicava. Il comunicato del Tesoro, uscito una mezz'oretta fa, getta acqua sul fuoco, dice che c'è il lavoro per una soluzione e ricorda che le due banche sono solvibili, il che di fatto è un presupposto fondamentale, una premessa necessaria per la ricapitalizzazione a carico dello Stato, che quindi in teoria rimane in piedi. La sensazione è che comunque le prossime ore saranno decisive, perché il muro contro muro sta durando da troppo tempo e ogni giorno perso sicuramente non giova alla salute delle due banche. Io ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per questo aggiornamento e per questi chiarimenti. Marco Ferrando, che torneremo a sentire oggi pomeriggio in Focus Economia. Focus Economia che sarà sempre in diretta da qua, da Autopromotech, e oggi vi tocco io, per così dire. Spostiamoci in Brasile, dove la tensione è altissima. Mobilitazione delle forze armate per difendere la sede della Presidenza della Repubblica e dei ministeri a Brasilia contro le violenti proteste antigovernative scoppiate nella capitale federale. Decisione presa dal capo dello Stato Michel Temer e formalizzata da un apposito decreto, criticata sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Spero che la notizia non sia vera, ha commentato il giudice della Corte Suprema Marco Aurelio. Intanto tutti i ministeri di Brasilia sono stati evacuati dopo i gravi atti di vandalismo compiuti da alcuni manifestanti che protestavano contro il governo di Temer. Alcuni dimostranti col volto coperto sono entrati in conflitto con la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e granate stordenti. Nel frattempo il governo brasiliano registra l'ennesimo forfait. Sandro Mabe, l'assessore speciale del presidente Michel Temer, ha rassegnato le sue dimissioni dopo essere finito nel mirino della Polizia federale perché sospettato di corruzione. Mabe è il quarto consigliere diretto di Temer a lasciare l'incarico dallo scorso dicembre. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo dunque anche il quadro dal Brasile. Siamo alla politica italiana con la legge elettorale. Gli aggiornamenti di oggi arrivano soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che torna all'attacco. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Proseguono le trattative, ma anche gli scontri sulla legge elettorale. Domani ultimo giorno per presentare in Commissione Affari Costituzionali della Camera gli emendamenti al testo base della riforma, che per ora rimane il Rosatellum, sistema misto con 50% di collegio uninominale e 50% di proporzionale, ma continua la trattativa tra PD e Forza Italia dopo l'apertura di Berlusconi. Se il PD fa sul serio possiamo lavorare su una legge condivisa, ha detto l'ex cavaliere, la cui preferenza si sa è il modello tedesco, ovvero un proporzionale puro. Ma il Movimento 5 Stelle, che ribadisce di preferire l'Italicum esteso al Senato, si dice sì, pronto a dialogare, ma a certe condizioni: che non ci siano inciuci PD e Forza Italia per far fuori il movimento. Più di un sospetto questo per Luigi Di Maio, che oggi attacca, penso si stia facendo di tutto per escluderci dalle prossime elezioni con una legge elettorale, dice, che consente agli sconfitti di continuare a detenere il potere ma non possono impedirci di vincere. In casa PD invece Renzi spinge per fare in fretta. Martedì la segreteria del partito dovrebbe chiarire la linea definitiva, mentre in Parlamento si allarga il fronte favorevole al proporzionale. Ora si aggiunge anche la Lega. Preferiamo il maggioritario, dice Salvini, ma conta di più andare alle urne al più presto, quindi dateci una legge elettorale qualsiasi e noi l'approviamo. E da Roma è tutto. E grazie dunque anche ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Ieri sera alle 21.30 la stilista Laura Biagiotti è stata ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato, a quanto pare, un danno cerebrale. Lo rende noto l'ospedale, è in corso l'accertamento di morte cerebrale. Vi aggiorneremo su questa vicenda. Intanto abbiamo una notizia già triste, che è quella della morte dell'astrofisico Giovanni Bignami, che è morto appunto a Madrid. Una notizia che ha colto di sorpresa molti. Siamo in linea con Roberto Battiston, che è il direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana. Battiston, buongiorno e benvenuto, anche se non è un buongiorno per voi, immagino. No, un giorno molto triste per tutta la comunità dell'astrofisica e dello spazio. Nanni Bignami era una persona conosciutissima, la sua presenza era indistinguibile dallo spazio italiano, la storia dello spazio, con dato dei contributi importanti sia come scienziato, come astrofisico, studiando in particolare stelle in condizioni estreme, le stelle a neutroni, prima di studiare altri tipi di fenomeni importanti nel settore astrofisico. Poi ricordiamo la sua attività continua presidente dell'ASI per un paio d'anni, poi ha fatto il presidente dell'INAF, del COSPAR, che è un organismo internazionale dedicato appunto allo spazio, forse più importante. Quindi ruoli di ogni genere nel settore sia istituzionale che scientifico, divulgatore notissimo, pubbliche sulle scienze sono memorabili, scrittore di libri, pluripremiato, membro di accademie, dei Lincei e tantissimi altri riconoscimenti. Veramente una persona che ha dato un contributo enorme all'attività culturale, scientifica e anche alla testimonianza politica. Si è messo anche a impegnato anche nel settore politico per testimoniare i valori della scienza, della ricerca, quindi per tutti noi è una perdita grandissima, soprattutto poi una persona che è stata attiva fino all'ultimo momento, lo ricordiamo tutti in piena forma, con idee, suggerimenti, volontà di fare, di lanciare altre iniziative, di scrivere altri libri. Siamo senza parole, siamo costernate, sicuramente la comunità scientifica italiana gli mancherà tantissimo Nanni, siamo tutti è un giorno molto triste per noi. La ringrazio, grazie per la sua testimonianza Battistona, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia come sempre. Il nostro giro per l'Italia inizierà inevitabilmente da questa sentenza, decisione del TAR che riguarda i direttori dei musei che sta facendo tanto discutere, cercheremo di approfondirla dal punto di vista tecnico, perché il TAR del Lazio ha preso questa decisione che di fatto toglie di mezzo i direttori stranieri dei musei che oggettivamente stavano facendo bene. Come si diceva, ci fermiamo per il traffico, siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della sentenza del TAR che ha annullato le nomine di alcuni dei direttori dei musei, tra cui alcuni stranieri. Abbiamo parlato degli attentati di Manchester, abbiamo parlato delle banche venete e dell'incontro di questa mattina di Padova con i vertici delle banche venete. Ci siamo occupati anche della morte, come avete sentito, dell'astrofisico Giovanni Bignami, un lutto per il mondo della scienza italiana. Adesso torniamo appunto su questa sentenza del TAR che tanto sta facendo discutere. Siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook. Qualcuno ci dice che non c'è audio. Dite se c'è stato qualche problema, se c'è stata solamente un'interruzione, chiedo ai nostri tecnici, vedremo se riusciamo a ripristinarlo. Siamo sempre in diretta un po' in condizioni precarie, per quanto il nostro studio sia molto bello, da Bologna, da audio Promotech. Siamo in linea con Marcello Claric, che è professore ordinario di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Professor Claric, che è anche un avvocato. Professor Claric, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a lei e a tutti. Allora, questa sentenza del TAR sta facendo molto discutere, la parte soprattutto nella quale il TAR dice che i dirigenti pubblici devono essere italiani e non possono essere stranieri, e quindi tutto il meccanismo, per così dire, di attrazione dei talenti dall'estero per la gestione dei musei sembra un po' cadere. Che cosa rappresenta e come possiamo interpretare questa sentenza del TAR, Claric? Guardi, io intanto in linea di principio personalmente penso che soprattutto per i musei di livello internazionale può essere opportuno avere dirigenti anche stranieri. Il problema è che quando hanno approvato questa norma speciale sul reclutamento dei dirigenti dei poli museali si sono dimenticati di derogare a una norma generale che proprio vieta l'assunzione di stranieri in una serie di posizioni nelle pubbliche amministrazioni, tra cui tutti i dirigenti. E quindi è stata più che una svista o un cavillo del TAR, direi una svista del legislatore. Quindi hanno fatto male la legge, Claric, sostanzialmente. Nel senso che quando hanno fatto questa norma speciale che riguarda specificamente queste selezioni, ed è una legge del 2014, in quella legge, in questo comma, come al solito numerato 2 bis, come si fa di solito, nel disordine normativo, non hanno inserito se volevano reclutare anche dirigenti stranieri, una deroga alle norme generali sul pubblico impiego, perché non c'è dubbio, da sempre questa norma c'è, l'articolo 38 del testo unico, che prevede che per una serie di funzioni pubbliche dove c'è un interesse nazionale e qui ricadono tutti i dirigenti, bisogna essere cittadini italiani. E nella giornata di oggi in realtà poi le sentenze sono state due, perché ce n'è stata un'altra invece ad aggiungere confusione a questa giornata già piuttosto complessa. Ce n'è stata un'altra nella quale sono stati confermati Heike Schmidt alla Galleria degli Uffizi di Firenze e Cécile Holberg alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso che riguardava la loro posizione perché la ricorrente non ha potuto dimostrare l'illegittimità della sua estromissione, perché diciamolo, queste sentenze del TAR arrivano sul ricorso di persone che avevano partecipato alla selezione per diventare direttori dei musei e che sono state estromesse. Sulla base di questo ricorso il TAR del Lazio ha deciso. Quindi, come dire, c'è un'altra sentenza che riguarda altri due casi, professor Claric, che rischia di creare ulteriore confusione, no? Ecco, sì, certamente, perché il problema è che ogni ricorso da parte dei singoli interessati è diverso. Ciascuno, non tutti hanno sollevato gli stessi vizi, quindi si va caso per caso, ne può essere diversamente. Per esempio, in alcuni casi hanno, il caso di Napoli, hanno sollevato anche la questione che i punteggi sono stati attribuiti sulla base dei criteri troppo generali e confusi. In un altro caso hanno anche censurato e annullato perché le prove orali sono state fatte non in forma pubblica come prevede la legge, ma addirittura, cosa che si può anche fare, per Skype, ma a porte chiuse senza mettere il pubblico. Quindi in effetti la confusione c'è, ma deriva dal fatto che ogni ricorrente, in modo anche scollegato dagli altri, ha scelto e ha individuato come potrebbe essere per lui più conveniente, più utile, i vizi da porre nel ricorso. L'ultima domanda che le voglio fare, professor Claric, il ministro Franceschini ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, ma a questo punto, da quello che ci ha detto lei, presumibilmente per mantenere i direttori stranieri dovranno fare una modifica legislativa, cioè una modifica della legge che riguarda questa selezione specifica, altrimenti rischiano di perdere anche il ricorso al Consiglio di Stato, no? Beh, è difficile fare previsioni assolute, certamente purtroppo le norme in questo caso sono piuttosto chiare, a meno che non si ritenga che siano addirittura incostituzionali alla luce di principi, che ne so, del diritto europeo o di altri principi, ma mi sembra onestamente che non sarà molto semplice in via interpretativa consentire una deroga. Ma il Consiglio di Stato potrebbe però anche in via cautelare sospendere subito le sentenze dei TAR e quindi almeno prendere un po' di tempo per approfondire di più la vicenda. La ringrazio, grazie al professor Marcello Claric per essere stato con noi, per essere stato anche così chiaro su questa vicenda e sul punto specifico. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Noi cambiamo decisamente argomento, nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo in Liguria. È un tema che abbiamo già affrontato ieri e lo sapete. Lo abbiamo fatto con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Liguri, nella fattispecie, che aveva denunciato un problema. Qual è il problema? Che ci sono dei mendicanti che vengono dai centri di accoglienza dei singoli comuni e che fanno una sorta di vero e proprio orario di lavoro, una sorta di pendolarismo dell'accattonaggio, cioè prendono, partono col pullman, con il treno, con la bicicletta, arrivano, fanno l'elemosina e poi ritornano nei centri di accoglienza. Hanno segnalato questa cosa, l'ANCI ha segnalato questa cosa alle cooperative che si occupano appunto dell'accoglienza, dicendo attenzione, cercate di provvedere. Oggi arriva la Lega che va giù col randello, per così dire. Siamo in linea col segretario leghista della Liguria, Edoardo Rixi, che è anche assessore allo sviluppo economico della regione. Buongiorno Rixi, benvenuto. Buongiorno. No, ma a quanto pare... Beh, eccoci qua. Buongiorno. Sì, abbiamo avuto un problema tecnico, adesso la sentiamo, pare che ci siamo. Allora Rixi, voi avete detto noi vogliamo schedare gli immigrati che fanno l'elemosina. Sì, perché c'è una situazione incredibile, devo dire, in particolare nel capoluogo genovese. Noi siamo arrivati al paradosso che abbiamo una marea di persone che quando vengono mandate fuori, soprattutto dall'accoglienza diffusa che rilascia sul territorio dalle 9 del mattino alle 18 di sera, vanno a fare accattonaggio molesto nelle varie zone della città, quindi sia di fronte ai negozi ma anche ad esempio di fronte al terminal crociere, nelle zone turistiche, nelle aree anche dove si posteggiano le moto chiedendo chiaramente soldi per posteggiare. Quindi c'è una situazione paradossale dove gli ospiti di queste comunità, che ci costano come erario pubblico circa 1000 euro al mese, oltretutto creano questa situazione. Così noi abbiamo anche i croceristi che ormai non si fermano su Genova ma sostanzialmente vengono mandati a Serravalle o da altre parti a causa anche delle segnalazioni rispetto a fenomeni di questo tipo, che ovviamente creano problemi a tour operator, a chi fa turismo, oltre che in città. Mi spiega come intendete schedarli? Ma noi chiediamo che la polizia locale sostanzialmente chieda i documenti, il nome a queste persone, si verifichi se sono nelle liste che sono all'interno poi ospitati da queste comunità, perché oltretutto c'è una legge nazionale che prevede che questo non si possa fare, già l'accattonaggio molesto sostanzialmente un reato, ma chi è all'interno dei centri non può fare questo tipo di situazione, perché ovviamente già l'erario pubblico paga oltre 35 euro di diario giornaliera. Guardi, è quello che ci diceva anche l'ANCI ieri, insomma, no? Che il tema è esattamente questo, cioè, come dire, queste persone stanno nei centri di accoglienza, hanno del cibo, gli viene dato del cibo, vengono mantenute, quindi è anche inutile che vadano a mendicare, in sostanza, no? Sì, poi oltretutto si sono verificati episodi spiacevoli anche nei confronti di ragazze, di situazioni di un certo tipo, che chiaramente oltretutto andiamo verso un periodo che per noi è particolarmente importante. Scusi, su questo ha dettagli specifici? Beh, ci sono varie segnalazioni anche da parte delle questure a livello locale. È chiaro che poi è difficile andare a individuare se la persona era una persona all'interno di questi centri o meno. È per questo che ritengo opportuna una schedatura al fine di verificare e di almeno risolvere questo problema e responsabilizzare queste associazioni che gestiscono questo fenomeno dell'accoglienza anche sui doveri che hanno nei confronti del territorio. Perché qua ricevono sì, però come si diceva ieri, Rixi, mi scusi, a chiudere, come si diceva ieri però, non è che questi hanno forze di polizia, cioè le COP che fanno accoglienza, non è che questi non sono prigionieri in un centro di accoglienza, sono accolti secondo un sistema di distribuzione sul territorio che, come lei sa, è diverso, cioè non è che hanno i vigilantes che possono tenere le persone chiuse là dentro, capisce che anche per questi, cioè questi possono anche vigilare, però non è che hanno metodi coercitivi per tenere, e non sarebbe forse nemmeno giusto per tenere queste persone dentro i centri, no? Nel momento in cui o fanno questo tipo di attività, come anche se creano problemi di ordine pubblico, credo che sia opportuno segnalarli e fare in modo che non ottengano né permessi di soggiorno né asilo e vengano rimpatriati, perché chiaramente chi è lì dentro è in attesa di un permesso di asilo di soggiorno. Chi si comporta in questa maniera, a mio avviso, non ha diritto di rimanere sul territorio nazionale. La ringrazio, grazie Edoardo Rixi per essere stato con noi, assessore allo sviluppo economico e segretario regionale della Lega Nord. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi dopo il nostro giro per l'Italia ci porterà nei dintorni di Milano. Ci è arrivata una segnalazione da un ascoltatore, una storia che non avevamo notato. Un sindaco di un paese della zona, si chiama Inzago, che cosa ha fatto? Quando c'è stato il 25 aprile, il corteo dei partigiani è partito con un quarto quarto d'ora di anticipo. E per questo quarto d'ora di anticipo il sindaco gli ha dato 1.000 euro di multa e adesso si stanno c'è una specie di sollevazione popolare ad Inzago. Parleremo di quello e parleremo anche di un prete che in Calabria è stato picchiato a sangue e adesso in coma da un gruppo di ragazzi che l'hanno che aveva pescato in parrocchia, che erano entrati forzando la porta. Un caso appunto che arriva da Reggio Calabria. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il TAR annulla le nomine dei direttori stranieri dei musei, i dirigenti pubblici devono essere italiani, Franceschini fa sapere, ricorreremo al Consiglio di Stato. Manchester ha trovato materiale per altre bombe, dopo la diffusione di informazioni stop alla collaborazione tra intelligence americana e britannica. Banche venete, dopo l'allerta di ieri Padoan incontra i vertici e rassicura, garanzie pubbliche per la liquidità, la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, iniziando da una notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda le due banche venete delle quali abbiamo parlato poco fa. Ci sono le parole del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, di pochi istanti fa appunto ha detto il bail-in per quanto riguarda le due banche venete è un'ipotesi esclusa. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso in Calabria, dove Monsignor Giorgio Costantino, 74 anni, è fortunatamente uscito dal coma, era stato picchiato la notte scorsa da un gruppo di ragazzini che erano entrati in parrocchia sfondando sostanzialmente una porta. Lui era entrato, l'aveva trovati là, l'aveva redarguiti ed è stato picchiato a sangue, è finito in coma e adesso per fortuna a quanto pare sembra essere fuori pericolo. Monsignor Giovanni Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, come sta? Non lei, naturalmente. Don Io Giorgio. Sto bene, grazie a Dio. Don Giorgio si sta riprendendo, però certamente sono ancora sotto controllo. Io l'ho salutato, non può parlare, ma capisce molto bene, si muove bene e quindi siamo in una situazione di attesa speranzosa. Sì, non è la prima volta che succedono episodi di questo genere nei confronti della parrocchia di Don Giorgio, no, sì, arcivescovo? Sì, è un'altra volta un altro caso, ma non è da addebitare alle stesse persone, naturalmente, almeno fino a quando non si pronuncia la magistratura o la polizia. Hanno devastato il centro Caritas, buttando a terra tutti gli alimenti, distruggendo, è stato il primo caso circa un anno fa e adesso questo nuovo caso però di un altro genere. Lei non ha l'impressione che le due cose possano essere in qualche modo collegate, insomma? Voi praticate un territorio piuttosto difficile, Monsignore, no? Sì, però non inquadriamo sempre il solito discorso di 'ndrangheta, perché non c'entra proprio la 'ndrangheta. A mio giudizio è questione di quelle che sono la problematica giovanile, no? La devianza giovanile. Comunque l'artefice è stato arrestato, ma un ragazzo, era un giovane di 25 anni, e anche il gruppo che stava con lui devono essere tutti ragazzi tra i 17 forse i 20 anni, non lo so, questo con esattezza non lo so, ma che sia stato arrestato uno di 25 anni, questo sì è vero. E questo ci fa capire qual è la problematica giovanile che come istituzione dobbiamo affrontare. Nella lettera che ho fatto ai fedeli e ai sacerdoti ho detto che per prima noi interroghiamoci, perché non riusciamo a formare tanti giovani ragazzi che pur passano dalle nostre parrocchie, anche se dobbiamo riconoscere che oggi certi sacramenti vengono chiesti più in un contesto di religione convenzionale che non di religione convinta come risposta ai propri problemi. Però è un dato di fatto, probabilmente questo giovane sarà passato dalle nostre parrocchie, avrà ricevuto pure la prima comunione, poi è la domanda che penso tutte le istituzioni dobbiamo porci, perché la devianza giovanile non la dobbiamo solo imputare agli altri e ai giovani stessi, ma dobbiamo interrogarci noi adulti, soprattutto, ripeto, che ha responsabilità educative. E al primo posto mi metto io in discussione come chiesa. La ringrazio, grazie Monsignor Giovanni Fiorini Morosini. Non siamo riusciti ad affrontare la vicenda di Inzago, della quale vi avevo parlato prima della pausa, e magari ci torneremo nei prossimi giorni, magari domani stesso. Andiamo a vedere. Adesso il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.